forse che avrei potuto fare di più e meglio, ma con tutte le delusioni, le amarezze, i dolori, le gioie. Questa è stata la mia vita e io l'ho vissuta intensamente, con entusiasmo, soffrendo, amando e lottando. Giovanna Marturano, classe 1912, partigiana. Oh ragazza, dalle guance di pesca, o ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti mi riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Coprifuoco, la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti. Chi non vuole chinare la testa, con noi prenda la strada dei monti. Avevamo 20 anni oltre il ponte, oltre il ponte che è in mano nemica. Vedavamo l'altra riva alla vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte, oltre il fuoco comincia. L'amore. Lo spettacolo Partizan Let's Go, ideato e diretto da Paco Graziani e Alessandra Ferraro, con Andrea Cota e Michele Baronio. Lo spettacolo Finisce per A, di Eugenio Sideri, con Patrizia Bollini, regia Gabriele Tesauri. È l'alba del 10 maggio 1924, precisamente le 4:40 del mattino, e fra un minuto scatterà il Giro d'Italia. Siamo a Milano, a Porta Ticinese, e il panorama qui intorno è ancora deserto. I milanesi sono ancora tra le braccia di Morfeo, ma gli organizzatori del Giro si stanno dando un grande affare. Rombano qui intorno le Alfa Romeo e le Guzzi degli organizzatori e dei colleghi giornalisti che si appresteranno a seguire gli impavidi ciclisti lungo il nostro stivale. Da percorrere ci saranno 3613 chilometri suddivisi in 12 tappe. Caro Gesù, le cose non vanno mica sempre come uno vuole. No. Quel che conta però è spingere fino in fondo. Il fiato ti manca, di forza non ce n'è più. Ti sembra che il sudore non sai più se sia sudore o tutta la rabbia che viene fuori. Perché se c'è vento e non puoi farci niente. Devi solo pedalare, testa bassa e pedalare, controvento e pedalare. Mani sul manubrio, schiena piegata e spingere. Con le gambe, con il corpo piegata su questo... Ah, una volta mi sono ritrovata in salita che non ce la facevo più. E allora mi sono messa la bicicletta sulle spalle. Mi sembrava di avere una croce. Mi sembrava anche a me di fare il Calvario. Si chiama così il posto dove ti hanno ammazzato. Ecco, quasi preciso. Non riuscivo proprio ad andare avanti. E allora ci ho pensato che mi sembrava proprio di portare una croce con le ruote. E pensavo, ma cos'è il mio martirio? Ma cos'è questa, la mia condanna? E per cosa poi? Per i miei peccati. Ma quali peccati? Io, per me, correre in bicicletta non è mai stato un problema. Anzi, l'ho sempre voluto fare io. Fin da piccola mi è sempre piaciuto. Ma quella volta lì, con la bicicletta sulle spalle, mi sembrava proprio di essere una condannata. Caro Gesù, la mia storia è ben diversa dalla tua. Tu hai scelto di morire per salvare gli uomini. E loro se ne sono bella che fregati e ti hanno mandato a morire come un delinquente. Voglio dire, tu hai scelto di essere condannato dagli uomini. dai maschi. Eh sì, perché la legge oggi come allora la fanno loro. Eh sì, caro Gesù, anche a te ti hanno condannato i maschi. Che la legge non stava mica con le donne. Anzi, forse allora era anche peggio. La tua mamma, ti ha seguito fino alla fine su quella montagna. La tua ultima tappa, caro Gesù. E c'era anche una di quelle, la Maddalena, una poco di buono. O magari non aveva niente da mangiare, quella è l'unica roba che era riuscita a fare. Si fa presto a dire puttana, puttana. Me lo dicono pure anche a me. Lo vedo per la strada, che mi aspettano che passo. Mi aspettano per vedere se ho i pantaloncini con le ginocchia nude. Pensa un po'. E non hanno il coraggio di dirmelo in faccia, ma io glielo leggo negli occhi. Ma non ci piango mica più. Per fortuna il mio Luigi è un intelligente, non è mica di questi problemi. Anzi, pensa che quando ci siamo sposati mi ha regalato la bicicletta nuova. Caro Gesù, te e il tuo catechismo. Ci andavo con due delle mie sorelle al catechismo. Me le caricavo sulla bicicletta, una in sella dietro di me e l'altra sul cannone. E via, via, via, via, via, via. 5 chilometri andare, 5 chilometri a tornare, con la mamma dietro che mi gridava: mo sei matta? Mo stai attenta alle bambine? E lì, al catechismo, ho imparato tutte queste cose. Sulla tua vita, sulla Bibbia. Mi piaceva perché nella stanza c'erano appese le figure con le storie più belle. Il miracolo dei pani e dei pesci. Lazzaro. E poi c'era la figura di quando ti hanno condannato, ti hanno messo le spine in testa e la croce sulle spalle, intorno tutti a tirarti dei sassi e a gridare come matti. Anche a me, caro Gesù, i maschi mi gridano, e gridano così forte che se anche aprissi la bocca nessuno mi sentirebbe, come la tua mamma. E allora io pedalo, pedalo, pedalo, pedalo, fino a non sentirli più, fino ad arrivare in fondo, fino a tagliare il traguardo, fino a coprire quelle grida. Ma forse non gridano nemmeno, forse è solo la mia testa. Me l'hanno sempre detto che sono un po' matta. Mi chiamavano la matta fin da piccola. La matta, perché andavo in bicicletta. Pensa un po', perché andavo in bicicletta. Una roba da maschi. Beh, io so pur fare a cucire e ricamare. Non è una roba da femmine quella. Beh, posso pur cucire, ricamare e andare anche in bicicletta. O forse quelle grida le sento solo io nella mia testa. Un po' come il mio Luigi, che l'han chiusa a San Colombano perché ne sentiva fin troppe di voci. Voci di tutti i tipi, e lui le sente sempre. E non lo fanno dormire la notte. Anche a casa stava sveglio e camminava su e giù e su e giù. Io all'inizio non ci badavo, poi ha iniziato a parlare con le voci, a discutere per ore. E fumava una dopo l'altra. Fumava, parlava con le sue voci e io di là che facevo finta di dormire. Poi ha iniziato a gridare. Urlava alle voci di andarsene, di lasciarlo in pace. E una notte l'ho trovato con la fronte insanguinata, le orecchie insanguinate, sul muro le tracce fresche di sangue. Non voleva più sentirle lui le voci, voleva essere lasciato in pace. E quando uscivo ad allenarmi avevo paura di lasciarlo a casa da solo, e allora ho pensato che lì, a San Colombano, potesse stare più tranquillo. Lì c'erano dei dottori apposta per quelli come lui, quelli che sentono le voci. Delle volte prendo la bicicletta e lo vado a trovare. Ne approfitto, così oltre a vedere il mio Luigi mi alleno anche un po'. E gli porto la frutta, le sigarette. Ma ormai lui non mi riconosce più. Ormai sta solo con le sue voci. E allora torno a casa con la bicicletta E la strada mi sembra lunga, lunghissima, le gambe stanche. Perché? Perché penso al mio Luigi, che sente le sue voci. La tappa di oggi ci porterà a Genova. 300 chilometri che i nostri eroi tra pochi secondi cominceranno a solcare sui loro velocipedi. Sono assenti le grandi case con i loro campioni. Mancano Brunero, Bottecchia, Beloni. Ma ecco che vediamo invece Girardengo. Non è sulla sua Maino, ma comodamente seduto in un'auto della scuderia. Sta salutando i colleghi. Si avvicina Federico Gai, uno dei candidati alla vittoria, già partecipante al Giro 2 anni fa, e lo scorso anno vincitore della prestigiosa gara transalpina Parigi-Roubaix. Si avvicina a lui anche Bartolomeo Aimo, vincitore del Giro di Piemonte del 23. E poi Sivocci Alfredo, già vincitore di una 600 chilometri e di un Giro del Veneto 2 anni fa. Sta arrivando anche Pietro Linari, fiorentino di Rifredi, trionfatore quest'anno della Milano-Sanremo. Torniamo invece alla nostra partenza. Le 12 tappe previste saranno intervallate ciascuna da un giorno di riposo. Scenderemo da Milano lungo la sponda sinistra della penisola, fino a Taranto, per poi risalire fino a Fiume e ritornare verso Milano. La lunghezza delle tappe va da quella più breve, 230 km per la Taranto-Foggia, a quella più lunga, 415 km per la Bologna-Fiume. Il tempo previsto che pensiamo i nostri corridori staranno in sella sulle loro macchine d'acciaio varierà dalle 9 alle 17 ore per tappa. Non basta mica vincere delle gare, batterli, arrivare prima di loro, no, hanno sempre da ridire, da pensar male. Una femmina non può mica andare in bicicletta, è roba da uomini. Sì, caro Gesù, si sono fatti e scritti le leggi per loro e noi zitte. Perché poi qui da noi va così, ma in Francia, in Inghilterra le fanno pure le gare le donne. Sì, le gare in bicicletta, e hanno cominciato ad andarci in giro per le strade come gli uomini e nessuno gli dice mica niente. Sai Gesù, quando sei lì a pedalare per ore e ore, vai a pensare alle cose più strane, un po' anche per passare il tempo. Per esempio pensi che il male, quello vero, non sono i muscoli e le ossa, non sono le gambe che arrivi a sera a non sentirle più, non è la schiena, quella sta curva ormai anche quando dormi, no, il male, quello vero, è quello che scrivono i giornali, che dice la gente, i pensieri, sì? Quelli sono brutti, i pensieri che hanno perché io corro in bicicletta, io che faccio una cosa come loro, io che pedalo come loro, cosa hanno paura? Che pensi anche come loro? No, miei cari, proprio no. A me non me ne frega niente dei vostri pensieri e potete anche scrivere il mio nome come se fosse quello di un uomo, che io pedalo lo stesso e questo Giro d'Italia lo finisco, anche se arrivo ultima. Numero 72, Alfonsin Strada, Federazione di Milano. Me, che sono di Fossa Marcia. Alfonsin. Guardi che mi chiamo Alfonsina. Sono una donna. Come se venissi dalla luna. Come quelle bestie strane che girano col circo, che devi pagare il biglietto per vederla. Ne ho vista una volta, da sola, nella gabbia. Era grande, grande e triste. Chissà, forse avrebbe voluto pedalare anche lei, o almeno correre. Forse a casa sua poteva correre. Forse anche sbattere contro un albero quel corno che aveva sul naso. Ma almeno era lei a scegliere. A scegliere di fare quello che voleva. Il mio nome finisce per A. Miei cari giornalisti della Gazzetta, per A! Ma voi non l'avete scritto! Vi è sfuggita quella letterina, eh? È scappata via dalle vostre penne. O forse l'avete nascosta, messa da parte, in gabbia, come quella bestia. E adesso? Adesso state lì anche voi, a guardarmi! Ma io in gabbia non ci sto. Io pedalo, pedalo, pedalo, pedalo. Ma vediamo la fornitura che Emilio Colombo, direttore della Rosea Gazzetta e organizzatore della corsa, ha previsto di affidare ad ogni corridore quale bagaglio rifornimenti. Dunque, Ogni partecipante alla corsa sarà fornito di uno zainetto contenente un quarto di pollo arrosto, 250 grammi di carne cucinata a cotoletta, due tramezzini di prosciutto dolce e pane burrato, due tramezzini di marmellata finissima, tre uova crude, due banane, 100 grammi di biscotti Delta, 50 grammi di cioccolato Sic, arance e mele. Il montepremi previsto non c'è ancora pervenuto, ma sappiate, cari ascoltatori, che il totalizzatore è avviato e le quote delle scommesse le potrete trovare già a partire da oggi sulla Rosea Gazzetta. Caro Gesù, la prima bici che c'è stata in casa è stata quella del babbo. L'aveva presa usata. Anzi, non l'aveva nemmeno presa. Gliel'aveva data il dottore in cambio di alcuni lavoretti. Sì, lavoretti. Fa presto quello lì a dire lavoretti. Quello lì, il dottore, mangia carne almeno 3 volte alla settimana. Noi, se andava bene, 2 volte al mese. Quella di scarto, che la mamma la prendeva dal macellaio prima che chiudesse. Che nessuno la voleva, delle volte aveva anche la puzza. Bah, comunque, il babbo gli aveva dissodato tutto il campo. Il giardino, lo chiamava il dottore, sì, altro che giardino. Comunque, il babbo ne aveva bisogno della bicicletta, perché era con quella che andava in giro a cercare da lavorare. Io la notte pensavo a te, che fai il miracolo dei pani e dei pesci. E una volta mi è scappato di dirlo al prete, che saresti anche potuto venire a casa nostra a fare quel miracolo, che avevamo una fame da non vederci lume. Il prete si è arrabbiato. Queste cose non si devono dire, non si devono nemmeno pensare. Perché, Gesù, l'hai detto tu, sono sicura. Beati gli affamati che troveranno ristoro. E il prete, nel regno dei cieli, Alfonsina, nel regno dei cieli. Ho capito, era tutto rosso come un peperone. Però sarebbe stato bello se tu fossi venuto da noi a Fossa Marcia, nella nostra pianura. Te lo dico io, che se fossi venuto, altro che quelli di Castenaso, di Molinella, sarebbero venuti fin da Bologna per vederti. E da Modena. E poi dalla Romagna. E secondo me sarebbe venuto anche il Duce in persona. A casa c'erano 12 bocche da sfamare. E almeno, grazie alla bicicletta, il babbo un po' di pane a casa lo portava. Ma io non mangiavo. 1 o 2 morsi e subito scappavo di fuori con la sua bicicletta, che nemmeno toccavo per terra con la punta dei piedi. Nemmeno sapevo fare a stare in equilibrio. Ho imparato a suon di scortichi, di lividi, sui gomiti, sulle gambe. Tanto, cosa me ne faccio di queste gambe? Non devo mica fare la signora, io. Non devo mica fare la ballerina. Io pedalavo, scalza, che di scarpe ne avevo solo un paio, ripassate da mia sorella. La veste la tiravo su, arrotolata, che mi lasciava anche un po' di coscia scoperta, ma non mi importava niente se i maschi mi guardavano. Venite, dai! Vediamo chi arriva primo! Che poi, caro Gesù, cosa importa? Cosa importa, dico io, se sono l'unica donna iscritta e loro sono 108. Intanto si sono presentati in 90. Intanto io sono qui. Anche col nome sbagliato, ma sono qui. E questa corsa la finisco, costi quello che costi. Le venu de monde! Mossa figa, le altre tre notte. Le venu de monde! Funsana! Mo sei da rugge da stora! Sono le 3 di notte! È nata la misurella! È nata! Le venu de monde! Remo, sta sova là! Le venu de monde la fiola di Carlo! Da stora? Da stora! Mo va là! Te su niente! Mo no, sa dit! La ma sveglia la matta! Mi ha tirato giù dal letto la matta! La matta? Sì, la matta, la funzione di Carlo. Lei è in vir per tutto il paese con la bicicletta e la rugia a sussurella. È proprio matta. Ma ci sarà bisogno di gridare che è nata sua sorella. Oh, signor Bernadette, va là che stega so, che la Virginia l'avrà bisogno. Olga, stesso, svegliati, che sennò l'Alfonsina non la smette di gridare. Mamma, sta un po' seta adesso, fanciacare, insomma, sta buona, fammi parlare, sennò finisce che non ci capiamo. Ti ho fatta venire apposta un mese con me a Parigi per vedere se arrivi a capire una volta per tutte cosa faccio per campare. Che si campa ad andare in bicicletta, di questo stai sicura, non sono mica matta. Te, non ti preoccupare, l'albergo è pagato. Sì, sì, per un mese tutto pagato, non ti devi preoccupare di niente. Insomma, no, il vestito che ti ho regalato non l'ho preso a rate. No, no, neanche il cappello. Li ho pagati, sta tranquilla, mi pagano bene qua per andare in bicicletta, cosa credi? No, no, no, insomma... Se il cappellino con la veletta non lo vuoi, lascialo qua, cosa vuoi che ti dica? Se non sai cosa fartene a Fossa Marcia, non te lo mettere. Regalalo a qualcuno. Tanto là siete almeno 15, 20, tra te il babbo, fratelli, sorelle, i cognati, la nonna. Sì, mamma, sì. Sì che l'ho finito il giro d'Italia. Fino in fondo siamo arrivate in 33. E io sono arrivata? Sono arrivata 31esima. Adesso fammi preparare per lo spettacolo di stasera, te l'ho pur detto. Mi danno dei soldi per andare in bicicletta. Quella portava un braccialetto strano, una cifra d'oro attorcigliata, che fissi da fare. Siamo stati in giro per tutta l'Europa. Londra, Bruxelles, Lisbona, Madrid. E adesso un mese qui a Parigi. E ci hanno già scritturati per il prossimo anno. Delle volte mi chiamano da sola, delle volte lavoro con degli altri. Con il circo. Sì, con il circo, mamma. Sì, con il circo Barnum. Sì, il circo. Quello degli acrobati, dei leoni, i pagliacci. E l'Alfonsina. Adesso lavoro con Gino e l'Anna. Gino Franzi e Anna Faugez. Dai, quella di Vipera. L'hai sentita anche te per radio? Vipera. Adesso ti faccio vedere. Io vengo dopo che lei ha cantato. E mi preparano per correre sui rulli. Te immagina che qui, sotto la bicicletta, ci sono due bidoni girati, che sotto hanno delle rotaie. Come quelle del tramvai. Brava. La bicicletta sta sopra. Così quando io pedalo i rulli girano. Attaccato qua dietro c'è un filo elettrico che va a un tabellone tondo che sembra un grande orologio. Serve a vedere quanto vado forte. A che velocità pedalo. È una macchina che hanno inventato in Germania. Berlino, 1910. Serve a vedere quanto vado veloce, te l'ho appena detto, mamma. E io l'altra sera sono riuscita ad andare quasi ai 40, hai capito? Ai 40 all'ora! Una roba che anche gli uomini fanno fatica. E viene giù il teatro. Mi fanno gli applausi, mi lanciano i fiori. E fuori dai teatri mi chiedono anche l'autografo. È la mia firma, mamma. Gli vendono delle cartoline dove ci sono fotografata io e la gente mi chiede di metterci la firma. Come, cosa se ne fanno? Perché sono famosa, mamma. Mi conoscono in tutti i teatri d'Italia e in Europa. Guarda che fuori dall'Italia è normale che le donne vanno in bicicletta. E poi Mi dovresti vedere quando faccio la donna canguro. Mi montano un trampolino. Io prendo la rincorsa con la bicicletta e salto 12, 13, 14, 15 metri più avanti. Un salto nel vuoto, mamma! E stasera faccio anche la ruota della morte. Pedalo così forte che riesco ad andare anche a testa in giù. C'est de la musique, de la vraie musique. Alors là, pardon, moi je dis chapeau, ça c'est champion. Écoute-moi, Sterla, hein, qu'est-ce que tu me dis de ça? C'est pas du bidon, ni de la guimauve, minute papillon. Ça c'est de la musique, de la vraie musique. Et là-dedans, tu sais, fais-moi confiance, moi je m'y connais. Sai, caro Gesù, me li ricordo tutti gli arrivi, tutti e 12. Prima tappa Milano-Genova, primo Aimo in 11 ore, io arrivo 74esima in 13 ore 28 minuti. Seconda tappa Genova-Firenze, 12 ore Gai, 14 ore 10 minuti io, 56esima. Terza tappa Firenze-Roma, 11 ore Gai, 13 ore 32 minuti io, 57esima. Alla settima tappa molti si erano proprio ritirati del tutto dalla corsa. Io resistevo e continuavo a pedalare. Ero 43esima in classifica generale. A 17 ore e 31 minuti dal primo, ma c'ero. Io sono sempre arrivata in fondo e me ne lasciavo sempre dietro qualcuno. E poi, oh, ce n'era un bel po' che a metà tappa non ce la facevano più e si ritiravano. Io mai. Anche quella volta che sono arrivata fuori tempo massimo. L'Aquila Perugia, 296 chilometri, ottava tappa. Ma voglio vedere, caro Gesù, voglio vedere i signori uomini. Venivamo dalla Foggia all'Aquila, settima tappa, il valico del Macerone. 3 chilometri e 700 metri di salita, pendenza media del 6,8% con punti al 14%. Tutti tornanti a gomito, buche, ghiaia, sassi e poi vento, pioggia e ricado ancora, sempre sullo stesso ginocchio. Quella tappa lì mi aveva proprio distrutto e tutto potevo aspettarmi tranne che Colombo venisse a trovarmi in albergo per farmi complimenti. A me, il direttore della Gazzetta dello Sport che mi viene a trovare e mi dà una busta con 500 lire. Una sottoscrizione, mi dice, fatta dai suoi ammiratori di tutta Italia. Allora io non ci ho pensato troppo. Quella corsa lì la dovevo finire. A Bologna non ci volevo arrivare in anticipo come nel treno, ma con le mie gambe e sulla mia bicicletta. Mi aspettavano tutti i miei parenti all'arrivo. Avete visto cosa è stata capace di fare la matta stavolta? E mi sono fatta accompagnare da Colombo all'ufficio postale a spedire due vaglia, uno per Luigi al manicomio di San Colombano e uno per il collegio di suore dove ci stava l'Elena, la figlia di mia sorella Lina. Da quando era andata in Francia a lavorare gliela badavo io e sta cosa l'hanno saputa anche i giornalisti, che però non l'ha mai scritta corretta. Ci credo, perché io non l'ho mai raccontata a nessuno. E loro invece hanno sempre creduto che io avessi una figlia segreta, che io girassi per l'Italia in bicicletta a far baldoria mentre il mio maritino se ne stava a casa ad aspettarmi. Sì, ma che scrivano pure. Lo so io, lo sai anche tu, caro Gesù, del mio Luigi chiuso in manicomio. All'ottava tappa eravamo in 41. In due settimane di giro ne avevamo persi una quarantina. Io correvo. Ero ultima quel giorno, ma correvo, anche se il ginocchio non ce la faceva più, tutto gonfio da far paura. Pioveva, oh, non sentivo più le gambe dal freddo che avevo. E poi la sfortuna. Caro Gesù, a metà tappa mi si spacca il manubrio. Con quella pioggia in giro non c'era nessuno. E io non avevo mica la scuderia dietro, con i meccanici o i pezzi di ricambio. E allora prova e riprova a sistemare sto manubrio. E intanto il tempo passava. La pioggia continuava a cadere. Il ginocchio mi faceva un male cane. Io lì, ferma, a tentare di sistemare sto manubrio spezzato. Quando mi vedo arrivare una donna, una massaia, con una scopa. La spezziamo in due e con un pezzo di manico di scopa e un po' di spago, ecco che mi ritrovo un altro manubrio. Enrici era arrivato al traguardo di Perugia in 11 ore e 12 minuti. Gli altri erano arrivati molto distanziati tra di loro. Era stata una tappa terribile. Io ho tagliato il traguardo, che erano le 9 di sera, 3 ore e 43 minuti dopo Enrici, fuori tempo massimo. Il giorno dopo sarei dovuta tornare a casa in treno. La corsa per me era finita. Beh, caro Gesù, il giorno dopo invece Colombo in persona è venuto da me e mi ha detto che anche io potevo continuare la corsa, come Cividini e Aperlo, fuori classifica, ma c'ero. E per me questo bastava. Altro che, a Bologna ci sarei arrivata. Non smollavo proprio adesso che avevo pedalato per 2000 chilometri. Avevo 7 chili in meno e tutte le ossa e i muscoli indolenziti. Caro Gesù, mancavano ancora 4 tappe. E fuori gara o meno, ce n'era da pedalare. E io pedalavo. Caro Gesù, tu non ci andavi in bicicletta. Beh, non le avevano ancora inventate. Ma secondo me ti sarebbe piaciuto andarci. E sicuramente senza mani. La sera sta scendendo all'ippodromo Zappoli di Bologna, in attesa degli ultimi concorrenti per questa nona tappa del Giro d'Italia 1924. La tappa di 280 chilometri non è propriamente stata una passeggiata, tutt'altro. La pioggia ha accompagnato i girini fin dalla partenza mattutina e non li ha mai abbandonati. Il gruppo è rimasto compatto per gran parte del tracciato, almeno fino al passo dei Mandrioli, che li aspettava con forte vento e pioggia. La montagna spartiacque tra la Toscana e la Romagna era pronta ad accogliere la corsa con i suoi 10 chilometri e 900 metri di salite. Le continue interruzioni hanno gioco forza frenato la ciclista bolognese e anche la discesa non è stata priva di perigli. Tenace ed impavida come sempre, l'Alfonsina Strada è stata vittima di due tremende cadute e l'abbiamo vista rialzarsi con i pantaloncini strappati e delle lacrime rabbiose. L'Alfonsina è poi ricorsa all'aiuto di una famiglia di contadini che, dopo averla accolta nel loro casolare ed averla rifocillata, l'hanno costretta a levarsi la tenuta ginnica inzuppata d'acqua, fango e stracciata per offrirle un cambio sicuramente poco consono, ma asciutto e pulito, un paio di bragoni e una maglietta. Intanto i corridori traversavano l'Emilia tra il tripudio dei tifosi e mentre Ferrario ed Enrici traversavano il traguardo, man mano si avvicinava il resto del gruppo. E in questo momento sta rimbalzando una voce tra i viali e le porte di Bologna. Sta arrivando la regina della pedivella. Ecco che sta passando Porta Saffi e imbocca la via Emilia. Attenta, Alfonsina, attenta a non scivolare sul tramvai. Alfonsina è quasi irriconoscibile, coperta di fango, è stremata. Da Fossa Marcia, il suo paese d'origine, sono venuti tutti. Madre, padre, fratelli, sorelle, nipoti, amici. Ecco che si alza sui pedali. 300 metri all'arrivo. Strappa. 200. La vediamo sempre più vicina. 100. A 2 ore dal primo classificato, eccola che arriva. La folla è tutta per lei. Si alzano tutti nelle tribune. Un'ovazione per tutto l'ippodromo e Alfonsina Strada taglia il traguardo. Ah, è la mia Alfonsina, vedete? Vedete com'è bella. Beh, bella forse non proprio, ma sulla bicicletta fa la sua figura. E poi cosa conta? Cosa conta che sia bello o no? A me piace. E poi è brava, gentile, premurosa. È sempre stata così. Le piaceva correre in bicicletta. Ma non era una cosa normale, come dire, una mania da signora. No! No! Le piaceva proprio. Diventava matta se non ci andava. E Io delle volte ho pensato che anche con me in casa, insomma, ce la passavamo, ma per lei stare sulla sella era tutta un'altra roba, una roba che le riempiva veramente il cuore. E allora io, per il matrimonio, gliel'ho regalata la bicicletta da corsa. E non mi ha mai fatto mancare niente. Anche quando stavo a San Colombano è sempre venuta. Sempre! Con la frutta, le sigarette. È stato meglio così, per tutti e due, che lei potesse correre tranquilla e io stessi in manicomio. Tranquillo, riparato, protetto. E mi dispiace che non potevo darle molta soddisfazione, ma non ce la facevo. Lei mi portava anche gli articoli di giornale con la sua foto, mi faceva vedere le medaglie. Una volta mi ha fatto vedere una medaglia a forma di stelle. Diceva che era stato un regalo importante, di un importante, del poeta D'Annunzio. Quando arrivava, mi aspettava in parlatorio, seduta su una sedia di legno, con davanti un tavolo di legno. E mi venivano a prendere e mi portavano da lei. E quando arrivavo, lei si alzava subito in piedi e faceva di corsa il giro del tavolo per venirmi ad abbracciare. E l'infermiere diceva: Luigi, non sei contento? Non hai visto che ti è venuta a trovare tua moglie? E la lasciava fare, anche se non si sarebbe potuto. La conoscevano tutti ormai a San Colombano. La conoscevano, la mia Alfonsina, che veniva sempre in bicicletta. E l'infermiere la lasciava tra le mie braccia per un po'. Beh, in realtà erano le braccia dell'Alfonsina intorno a me. Le braccia dell'Alfonsina che mi stringevano forte forte. E io sentivo il suo cuore che batteva forte, forte. Alfonsina, attenta al cuore, cosa fai? Mi abbracci così forte che sembra che stai facendo la salita. E lei mi sentiva. Era come se mi sentiva che le parlavo anche io, che l'abbracciavo anche io, che le dicevo di stringere piano, che c'aveva una forza, c'aveva. Io provavo a parlare, provavo ad abbracciarti e nella mia testa, secondo me, io ti parlavo e ti abbracciavo, ti raccontavo delle medicine che prendevo 4 volte al giorno e della camicia di forza che stringeva, che faceva un po' male quando avevo le crisi. Però il dottore era soddisfatto. Adesso dormivo di più la notte, mi svegliavo di meno. Non sbattevo più la testa contro il muro. Te le raccontavo, Alfonsina, te le raccontavo nella mia testa queste cose e anche gli altri fatti che avvenivano nel manicomio. Della suora che si arrabbiava che uno aveva pisciato nella scodella della minestra, che era sempre sciapa, sembrava acqua sporca, sembrava. Aveva fatto bene. Io te le raccontavo queste cose, ma forse te ti stancavi. Forse non avevi troppa voglia di ascoltare i fatti del manicomio, ma cosa vuoi? Io stavo lì! E altro da raccontare non ce n'era. C'eri solo te, che quando arrivavi eri una cosa nuova. E mi venivano a prendere e mi portavano in parlatorio. Io, dentro di me, mi sembrava di ridere, di correre dalla felicità. Mi sembrava che ero contento che era venuta la mia Alfonsina, che va in bicicletta, va più forte dei maschi e non si dimentica mai del suo Luigi, non si dimentica. Io ero felice di tutte queste cose, ma le mie gambe facevano fatica a muoversi, la testa in giù, gli occhi aperti, ma era come se dormivo in piedi, come se dormivo, che l'infermiere mi trascinava quasi. E tu, la mia Alfonsina, che aspettava lì, sulla sedia, di legno, con davanti un tavolo. La mia Alfonsina. Alfonsina. Poi è venuta la guerra. È stata una roba brutta, anche se io, a dire la verità, forse il peggio, non l'ho mica visto, che nel 42 me ne sono andato definitivamente caput. E te hai fatto bene a risposarti, che Carlo è sempre stata una brava persona e ti ha sempre rispettato e voluto bene. Poi anche Carlo nel 57 caput, e te sei rimasta da sola con i tuoi gatti e la tua motocicletta, una Guzzi 500. Ti vedevo a 50 anni a sfrecciare sulla tua Guzzi nelle vie di Milano. Iniziavi anche te a sentir la fatica, ma una come te, Alfonsina, non è fatta per la motocicletta. Te sei nata per pedalare, che la bicicletta non ha mica i problemi di accensione come invece aveva la tua Guzzi, che te è scoppiato il cuore a spingere sulla pedivella dell'accensione il 13 settembre 1959. Non voleva proprio sapere di mettersi in moto. E allora a te, come al solito, testarda più di un somaro, e a voler far da sola, che non volevi che nessuno ti aiutasse. E dai, che dai, che dai, sulla pedivella. E ti è scoppiato il cuore. La Guzzi è finita piano, piano, per terra, sulla strada. E tu l'hai accompagnata, abbracciata al manubrio, sei andata piano, piano giù con lei e sei rimasta lì, Alfonsina strada, sulla strada, abbracciata alla sua Guzzi, con gli occhi chiusi, che ti eri addormentata lì, sulla strada, con il sorriso sulle labbra. Che te, io, lo so, te sognavi lì, sulla strada, abbracciata alla tua Guzzi. Ti eri addormentata e sognavi di essere abbracciata al manubrio della tua bicicletta, a pedalare sulle strade di Brescia vicino a Fossa Marcia, là nella piana dove sei nata, a correre con i pantaloni tirati su al ginocchio, coi capelli scompigliati dal vento, e dai, che dai, che dai, sui pedali, e ridevi, Alfonsina, ridevi a correre dietro al treno, a vedere se lo raggiungevi, e ridevi, ridevi a correre sulla tua bicicletta, più veloce del treno, più in alto del cielo, più in su delle nuvole, lassù, lassù, lassù. Lo spettacolo finisce per A, di Eugenio Sideri, con Patrizia Bollini, regia Gabriele Tesauri. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Alessandra Ferraro della compagnia Margine Operativo per presentare la 24esima edizione del festival Attraversamenti Multipli a Roma dal 15 al 29 giugno 2024. Ben trovata. Ciao, buongiorno. Raccontiamo cos'è. Percorso che è iniziato nel 2001, lungo, e chiaramente è un festival che ha avuto anche dei suoi cambiamenti, questo lungo percorso, e quest'anno, continuando un po' un arco che è iniziata nell'altra edizione, siamo al parco delle fiscali, quindi abbiamo aperto un po' un ragionamento delle relazioni tra le arti performative del contemporaneo e gli spazi

spettacolo, c'è una dimensione molto di attraversabilità anche degli spazi e anche di punti di vista molto più in cui si può collocare lo spettatore. E all'interno di questa traiettoria, come dicevo prima, stiamo ospitando delle residenze artistiche di tre artisti, tra l'altro questa è anche in rete con una rete che si chiama Ecoritmi, fatta da Fondazione Roma Tre Pallato, Etiche e Margine Operativo, che è supportata proprio da questo progetto dall'Unione Europea, che si intreccia attraverso i ultimi di intrecci di intrecci. E queste tre residenze artistiche, una è quella che sono state scelte attraverso l'open call nazionale, a cui c'è stata una risposta enorme da parte degli artisti, anche inaspettata, che racconta anche un'esigenza di avere delle modalità produttive diverse, delle possibilità di produzione anche. Stavo dicendo, queste tre residenze, una è quella di per creare il Cosmorama di Nicola Galli, che è un artista che si occupa di ricerca corporea sul rapporto con la natura e in relazione sui paesaggi, e che presenterà Cosmorama il 20 giugno, ed è un percorso di RAM nel parco, progetto quindi di danza, veramente in relazione molto forte con il paesaggio naturale. Poi abbiamo Ruth di Francesca Cora, che è un artista multidisciplinare che intreccia arte visive, tecnologia, movimento e una poetica, possiamo definire la transmediale, che presenterà il 27 giugno la performance. E tra l'altro il 27 giugno è una giornata dedicata alle nuove generazioni di spettatori, anche per attraversamenti multipli a Roma, quindi non so, a Tokyo c'è una giornata dedicata a questa. E tra l'altro Francesca presenta anche un laboratorio di ecodanza pratica per l'infanzia. E poi abbiamo il Raccoglie Pietro di Enrico Malatesta il 28 giugno. Questi sono i tre progetti, hanno un reggimento molto forte sulla sostenibilità, ma non solo. Sempre il 20 giugno, per esempio, c'è Giselda Rignieri, anche lei danzatrice e coreografa, che presenta prima nazionale spettacolo vetro insieme a una musicista, dove la musica è live e viene generata attraverso gli impulsi sonori che sono generati dalle piante, quindi c'è una relazione con l'ecosistema che avvolge il parco tropicale. Quindi diciamo, queste sono un po' le traiettorie. Ci dai riferimenti web per sapere i dettagli del programma? Tutto sul sito, che è attraversamentimultipli.it, dove trovate tutte le presentazioni delle singole giornate, degli artisti, i luoghi, le modalità di ingresso. 24esima edizione del Festival Attraversamenti Multipli a Roma dal 15 al 29 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandra Ferraro della compagnia Margine Operativo. Alla prossima! Grazie, vi aspettiamo il 15, ciao! Con Lorenzo Gardino per presentare il Festival Multidisciplinare La Città Ideale a Roma, Municipio V, dal 1 giugno al 25 luglio 2024. Ben trovato. Ciao, grazie. Cos'è La Città Ideale? La Città Ideale è un progetto di Elsa Picù, nato sotto l'idea e direzione di Fabio Morgan, per portare lo spettacolo dal vivo e tutto quello che è l'espressione live dello spettacolo all'interno dei municipi che non sono magari centrali, Roma, e che quindi hanno meno possibilità di fruire di questo tipo di intrattenimento in maniera semplice e veloce. E noi vogliamo proprio far questo, cioè creare positivi di intrattenimento trasversali, adatti a tutti, per tutte le età, e portarli fuori da quelli che sono i luoghi usuali dove questi vengono presentati, in modo tale da far avvicinare anche le persone che solitamente hanno difficoltà a fruire di determinati prodotti. Come si caratterizza l'edizione 2024? Sarà l'ottava, e in questi anni abbiamo avuto tantissimi format nuovi, innovativi, originali, quasi una ventina. Quest'anno ne proporremo addirittura due. Si tratta di Operai all'Opera e di Edicole, che sono due format ideati sempre da Fabio Morgan. Poi ci saranno i nostri cavalli di battaglia, ci saranno gli spettacoli del Circo Ideale con 12 compagnie che si alterneranno tutti i weekend dal giugno fino a fine luglio. Ci saranno poi i 100 voci, che è un format che prevede l'esibizione a cappella di più gruppi musicali con circa 100 ragazzi che provengono da tutto il Lazio, che canteranno all'aperto nel parco di Villa Sanchis. Ci sarà Bar Campioni in doppio format, il primo una riedizione di quello dell'anno scorso con la commemorazione della scomparsa di Agostino di Bartolomei. E poi il format innovativo di quest'anno, cioè di portare altri spettacoli sempre dedicati allo sport e ai campioni della storia dello sport all'interno dei bar, quindi portare quello che è lo spettacolo teatrale in un luogo che gli appartiene secondo me di più, perché il bar sport è per antonomasia il luogo dove si celebra appunto lo sport, e tutta questa programmazione ci accompagnerà per 2 mesi, tutti i weekend e anche qualche spettacolo durante la settimana. Com'è stata la scelta artistica? Proviene, beh, prima di tutto ovviamente dalle indicazioni del direttore artistico Fabio Morgan, e poi da un insieme di realtà, che una rete che la Città Ideale ha saputo costruire negli anni, proprio perché pensiamo che la rete che abbiamo costruito e che continuiamo a costruire riesca a sostenere tutta l'impresa culturale, non solo la nostra, ma anche a quelle che si avvicinano a noi e che ci aiutano. Quindi la scelta artistica è un insieme di scelte che vengono fatte da tutta la rete e sulle indicazioni ovviamente della nostra direzione artistica e sulle proposte che riceviamo, perché il successo del festival ha portato molte compagnie, molti artisti a proporsi per portare i loro spettacoli, modificandoli per renderli adatti alla mission della Città Ideale. Questa è una cosa che ci inorgoglisce da un lato e di cui siamo ovviamente anche grati dall'altro. I luoghi e gli orari del festival? La programmazione è lunga, c'è una line-up con tantissimi eventi. Solo a Villa De Sanctis abbiamo 15 eventi quasi, e poi in tutto il resto del municipio oltretutto. Il circo ci sarà ogni fine settimana a Villa De Sanctis, il sabato con i laboratori per i bambini e la domenica con gli spettacoli. E tutti gli altri eventi invece saranno eventi serali e saranno in diverse parti del municipio Quinto e ovviamente anche a Villa De Sanctis. Tutti i riferimenti web per saperne di più sul programma? Le informazioni saranno disponibili tutte ovviamente sul sito della Città Ideale, quindi www.lacittaideale.eu come Europa, sui canali social Facebook e Instagram della Città Ideale, e trovate anche a Villa De Sanctis, oltre agli strumenti digitali, anche i supporti fisici per conoscere tutta la programmazione, che verrà comunque trasmessa di volta in volta su tutti i nostri canali. 8ª edizione del Festival Multidisciplinare La Città Ideale a Roma, Quinto Municipio, dal 1 giugno al 25 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento a Lorenzo Gardino. A presto! Grazie mille, a presto! Con Lucrezia Lobianco dell'Associazione Pantera 90 Archivio per presentare l'evento Pantera all'assalto, archivi, pantere e altri animali fantastici. A Roma, Centro Sociale Brancaleone, sabato 15 giugno 2024. Ben trovata! Buongiorno, buongiorno Federico, ben trovata a te e sempre grazie di tutto per lo spazio che mi dai per tante cose, insomma. Oggi per l'archivio, ieri per l'Iraq, insomma ogni volta sono sempre bei momenti. Grazie mille. Partendo dall'archivio, dall'associazione, raccontaci un po' le varie tappe. Abbiamo costituito questa associazione, l'idea era proprio di mettere insieme tutto questo materiale che avevamo raccolto durante l'occupazione, che era materiale fotografico, materiale audiovisivo, insomma, che ognuno si era un po' tenuto dentro casa, perché insomma il tempo era passato, ognuno di noi fa altri lavori, però c'era rimasto questo materiale, e ogni tanto ci giungeva voce, ma io ho tutte quelle fotografie, io ho tutte quella quel giorno dell'occupazione, io avevo quel concerto e così. A un certo punto abbiamo detto, vabbè, senti, voglio dire, la metà di noi si occupa di audiovisivo, l'altra metà si occupa di archivi, mettiamo insieme tutto questo materiale, e così abbiamo fatto. Abbiamo cominciato a fare proprio una ricerca in rete, a costituire un'associazione, perché se vogliamo farci qualche cosa, tanto tutti questi materiali ovviamente essendo del 90 arrivano nei formati più diversi, quindi comunque va fatto un lavoro di digitalizzazione, va fatto un lavoro di archiviazione, di visione, insomma, quindi è tutto fatto nei tempi che ci permettono, poi è tutto un lavoro fatto appunto, facciamo tutti altri lavori, insomma, quindi facciamo quello che possiamo. Abbiamo raccolto veramente tante ore, abbiamo cominciato a fare un lavoro in rete prima con altre facoltà che avevano cominciato a fare un lavoro simile sulla Pantera. Abbiamo cominciato a lavorare con Palermo, che ha fatto un archivio audio molto bello lavorando con gli studenti, i triennalisti e non solo, per fare appunto un archivio audio con cui poi hanno fatto interviste a chi aveva partecipato alla Pantera. E poi ci siamo messi in rete anche con altri piccoli archivi che poco avevano a che fare col movimento studentesco, ma che erano secondo noi piccoli archivi resistenti e con cui è bello e interessante poter mettere in rete e confrontarsi sia sul tema proprio archivio, come c'è un archivio, sia di collaborazione, che cosa possiamo fare insieme, come possiamo procedere. L'idea è di fare un portale che raccolga tutti i piccoli archivi, in modo che io, quando ho bisogno di sapere che materiale trovare per una ricerca, posso andare là, cercare e sapere a che posto rivolgermi per quella parte di ricerca. Naturalmente questo ha un suo costo, non eccessivo, ma un po' ce l'ha, e quindi abbiamo pensato di fare una festa di sottoscrizione in cui mettere insieme di nuovo questi nostri piccoli archivi che abbiamo raccolto per andare insieme in questo nostro lavoro di rete, aggiungere delle altre cose. C'è la partita degli europei che capita proprio in quel giorno, quindi naturalmente sarà a disposizione di tutti, facendo una piccola cena per chi vuole mangiare, rimanendo a ballare, perché poi ci piace anche fare le feste. L'incontro delle 17:30 quali realtà mette insieme? Facciamo il seguito a un lavoro che era già stato proposto tempo fa dal Villaggio Globale. Un po' di tempo fa il Villaggio Globale sono stati loro ad avere questa idea di proporre una rete dei piccoli archivi, da cui è venuta poi fuori l'idea più grande di un portale, no? E in mezzo ci sono naturalmente loro, c'è la Via Viscosa, anche l'archivio della Lamod, anche se non è proprio il piccolo archivio Ante. Gli avvenimenti, c'è l'archivio di Palermo che vi stavo dicendo, quella era stata un'occasione per conoscerci e per presentare il nostro lavoro, entrano delle persone, delle realtà nuove per questo progetto, è un po' appunto sottoscrivere una piattaforma di lavoro per organizzare anche un tavolo permanente per andare avanti, insomma, perché sennò poi ci diciamo un sacco di belle cose, però poi ognuna torna a casa sua e basta. Invece l'idea era proprio di mettere insieme questo tavolo permanente, dove chiaramente i piccoli archivi che poi magari erano a conoscenza ci chiedevano magari di partecipare, ecco, ben vengano. Tra l'altro leggo anche Archivio Teatro Valle Occupato, che credo sia il più recente. Sì, anche il Valle, certo, il Valle c'ha un archivio bellissimo, tra l'altro, parteciperanno anche loro, naturalmente. Ci sarà un estratto del film Una vita all'assalto, il film sulla storia degli assalti frontali, il film di Paolo Pazzini e Francesco Principini, con materiale girato da Sante Calvaresi. Paolo Pazzini e Sante saranno sicuramente lì, non possiamo trasmetterlo tutto perché ancora è in anteprima, possiamo trasmettere una buona parte, tutto quello riguarda la Pantera, e loro sono lì a risponderci a tutte le nostre curiosità. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Sulla pagina Facebook della Pantera compie 30 anni, ci stiamo aggiornando man mano con quello che arriva, quindi sia col nome degli archivi e man mano che arrivano i pezzi, insomma, aggiorniamo. Il più lo trovate sicuramente sulla pagina del Pantera 90 Archivio, che è collegata con il gruppo La Pantera compie 30 anni. L'evento Pantera all'assalto, archivi pantere e altri animali fantastici a Roma, al Centro Sociale Brancaleone, sabato 15 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento a Lucrezia Lobianco dell'associazione Pantera 90 Archivio. Ci vediamo lì. Grazie mille. Ciao Federico, grazie, grazie ancora, ciao. Con Alino, uno dei curatori della collettiva di fumettisti e illustratori per la Palestina Libera, Falastin Hurra. Ben trovato. Salve, salve a tutti, buongiorno. Una mostra itinerante, ce ne parli? Sì, è una mostra che ovviamente è partita dopo i fatti di ottobre, quando abbiamo capito che la propaganda, ovviamente quella israeliana, stava prendendo piede in una certa maniera. Abbiamo sentito forte l'esigenza di fare qualcosa, perché sentivo tanta impotenza in giro, la sento ancora, con rispetto a quello che si fa a cercare di fermare questo genocidio. Chiaramente io mi occupo di fumetti, non li faccio nemmeno, li organizzo, li mostro, ecco, come curatore, come operatore del mondo del fumetto e dell'illustrazione, e quindi ho pensato di fare quello che sapevo fare, cioè raccogliere i tanti fumetti già fatti sulla Palestina, fumettisti che hanno poi invece voluto donare cose nuove a noi della mostra, e siamo partiti da Napoli con gli altri due curatori, che sono Giansandro Morelli e Guido Piccoli, con una appunto collettiva partita a fine dicembre da Napoli, poi è stata a Matera e a Milano, e spero che abbia ancora altre tappe. Ripeto sempre questa cosa, che ovviamente è una mostra che sta avendo anche un discreto successo, ma è una mostra che ovviamente avrei preferito non fare, perché chiaramente è una mostra che parla di dolore e di una situazione che avremmo tutti preferito che non esistesse. Quanti sono gli artisti e le artiste coinvolte? 30-35 sono diventate, lo dico senza purtroppo un numero preciso, perché è una mostra che sta anche molto aumentando. Ogni tappa noi facciamo delle live performance con i disegnatori del luogo, anche giungono anche in maniera volontaria. Io racconto sempre che una ragazza è venuta all'inaugurazione della mostra a Napoli, presa e colpita da queste cose, è tornata a casa e ha scritto, ha detto: io ti devo fare qualcosa e tu la devi mettere in mostra, io mi aggiungo la sua tavola. Quindi c'è un'esigenza che sento anche nel mondo della cultura, degli operatori e dei disegnatori, autori di fumetto, di voler partecipare. Quindi decisamente siamo intorno ai 30-35, però c'è, e quindi così vi spiego anche un po' il resto della mostra, all'interno delle sezioni ci sono due mini sezioni. Una è una collettiva di fumettisti molto importanti che è stata fatta negli anni 80, nell'88, e che prevedeva Andrea Pazienza, Mira Manara, Mazzotti, Magnus, c'era Altan, c'era Crepax, Vincino, Mauro, insomma un sacco di autori, era un portafoglio che si chiamava Cusia, Matite per la Palestina, e noi siamo partiti da quella, riproponendo quelle tavole dell'88, e quindi il numero salirebbe. Ma sale ancora di più perché poi un altro gruppo di autori, di disegnatori, la bellezza di circa 106 disegnatori italiani, curati da Francesca Germandi, che era un'altra storica disegnatrice degli anni 70-80, che insomma è ancora in attività, hanno deciso di omaggiare il personaggio di Angela, che è il personaggio più famoso del mondo arabo, del mondo dei fumetti palestinesi, diciamo, è arabo, che è un personaggio di un autore palestinese che purtroppo gli israeliani hanno ammazzato negli anni 90, che ci vede sempre solo di spalle, perché la sua idea era che questo ragazzino, Angela, appunto, si sarebbe visto di faccia solo quando la Palestina sarebbe diventata libera davvero. Chiaramente lui è morto e quindi questo non lo vedrà più, e i disegnatori italiani hanno deciso di omaggiare con i loro personaggi la posa di Angela, quindi tutti quanti di spalle. È un omaggio fatto a questo personaggio. Quante opere per ogni artista? Noi abbiamo diversi pezzi, diciamo, io ho una sezione di autori che ho recuperato internazionali, sono dei palestinesi, libanesi, giordani, che però la maggior parte di loro non vive più qui, ma stanno sparsi tra l'Europa e qualcuno addirittura fuori, una ragazza che sta a Chicago. E di ognuno di loro ho preso due o quattro pezzi, perché poi ovviamente la mostra è molto molto modulare, perché io sto cercando di farla molto elastica in modo che chiunque la può prendere, perché io è una mostra che sto concedendo gratuitamente a chiunque me la chiede in Italia, e quindi dipende dagli spazi. A Napoli era diventata di 120 pezzi totale, qui a Roma la faremo di circa 80 pezzi, altre parti è stata di 40, insomma, ecco, quindi da questo punto di vista è molto elastica. Però sai, 2-4 immagini barra tavole per autore. Diversi formati e tecniche. Sì, essendo una mostra che serviva fondamentalmente a uno scopo, quindi sostanziale, e anche molto poco artistico visiva, nel senso che sono tutti pannelli in forex stampati, quindi perché appunto deve essere molto anche agile e veloce da essere attaccata e andare in giro. Comunque sì, sicuramente c'è tantissimo bianco e nero, c'è tantissimo colore anche ad acquerello, a pastelli, anche tanto lavoro digitale, e addirittura c'è un lavoro di un palestinese che si chiama Mohamed Sabaneh, il cui libro è uscito per l'editore Mesogea in Italia, che si chiama Racconti di Palestina, e invece è fatto proprio l'incisione, per cui ricava il bianco incidendo delle tavolette nere. Ogni tappa ci sono incontri con gli artisti e le artiste e anche eventi collaterali? Sì, esatto, noi normalmente diamo appunto la mostra a chi sente l'esigenza come noi di fare una cosa sulla Palestina, e quindi è una mostra che al di là poi del valore artistico del fumetto e dell'illustrazione deve poter essere la realizzatrice di eventi per poter far parlare della Palestina. Noi a Napoli abbiamo fatto fino a 4 eventi, anche con 99 Mosse, con Paolo, con Valeria Parrella, scrittori vari, anche a Matera, anche a Milano abbiamo occupato un festival intero che si occupava di terzo settore. Qui a Roma per esempio avremo questa inaugurazione con militantati, Assalti Frontali e Luisa Morgantini di Asso Pace, ma poi nelle prossime settimane contiamo di fare tutte le domeniche eventi con altri, ripeto, soprattutto operatori di cultura di altre arti, perché il fumetto c'è già, l'illustrazione parla già di suo nelle mostre, sicuramente avremo anche i fumettisti nelle prossime settimane, però noi speriamo anche che diano il loro apporto anche tutte le altre arti, la letteratura, il cinema, il teatro. Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più? Noi abbiamo, sì, una pagina Instagram che si chiama come la mostra, però con l'aggiunta dell'underscore fumetto, quindi Falastinburra_fumetto, la pagina Instagram, e abbiamo anche una normale pagina Facebook, sempre Falastinburra, ed abbiamo anche un Twitter. Comunque trovate tutti i riferimenti appunto su queste pagine, anche nel caso mi vogliate contattare per portarla in altre città. Noi di sicuro dopo Roma andremo anche a Lecce, e poi ci sono altri contatti, sicuramente per Bologna, per Torino, e quindi purtroppo, uso questa parola, purtroppo la mostra andrà avanti per un bel po'. Falastin Hurra, collettiva di fumettisti e illustratori per la Palestina Libera, a Roma, al Villaggio Globale, dal 22 maggio al 16 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento ad Alino, uno degli organizzatori. A presto! Grazie, a presto. Con Gabriella Romano per presentare il suo libro Fascisms LGBT Forgotten Victims Asylum and Internment 1922-1943. Ben trovata. Buongiorno a tutti, ciao Federico. Parlaci di questo lavoro. Questo lavoro si basa sul mio dottorato di ricerca, perché in tarda età mi dedico sempre più alla ricerca storica. Io, come tu sai, ho un passato da documentarista e mi sono dedicata lungamente alla storia orale LGBTQ italiana, raccogliendo testimonianze di testimoni sopravvissuti al fascismo principalmente, anche se non solo, perché sono occupata anche degli anni 50, però principalmente di fascismo. Quindi mi sono orientata poi sulla ricerca storica, ho pubblicato un saggio che era la mia tesi di master sul caso di un internato omosessuale nel manicomio di Collegno. Lui è stato internato nel 28 e da lì ho espanso, allargato il campo e mi sono occupata di internamento degli omosessuali, lesbiche e, perché oggi noi chiameremo transessuali, che all'epoca non si chiamavano così, nei manicomi italiani. Ho preso in considerazione tre archivi di ex manicomi: Roma, Firenze e Girifalco in provincia di Catanzaro, quindi Calabria. Ci racconti anche un po' tutte le ricerche e come le hai organizzate? Io la ricerca l'avevo cominciata a Collegno, però per questo libro in particolare sono focalizzata su Roma, Firenze e Girifalco in quest'ordine. E quindi ho cominciato con Roma, che è un archivio molto fruibile, molto ben organizzato, a Santa Maria della Pietà, l'ex manicomio di Roma. E ho cominciato analizzando alcune categorie diagnostiche che avevano a che fare principalmente con la moralità e con la degenerazione. Quindi ho cercato cartelli di pazienti internati per imbecillità morale, amoralità, immoralità e connessi, oppure anche per degenerazione e tutte le definizioni collegate a questa. Poi ho anche un po' sconfinato per vedere se c'erano casi di omosessualità in altre diagnosi, però principalmente queste erano le diagnosi che ho preso in considerazione. Ho trovato pochissimi casi di internati per omosessualità, perché spesso l'omosessualità veniva considerata come una parte della devianza generale e non veniva neanche menzionata né in cartella né nel registro di ammissioni. Questo è successo anche a Firenze, negli archivi del ex ospedale psichiatrico San Salvi. Gli archivi qui sono smembrati in due, cioè in parte sono all'archivio di Stato di Firenze e in parte sono nei locali della biblioteca di psicologia, ubicata a San Salvi ancora, e anche qui ho usato gli stessi criteri. Anche qui i casi sono pochi, in quanto c'è un sommerso gigantesco, cioè ci sono delle definizioni molto vaghe per indicare la devianza morale e l'inversione sessuale, diciamo che è quello che io ho trovato veramente la punta dell'iceberg. Poi ho cercato a Girifalco. A Girifalco non ci sono i registri dei pazienti, le ammissioni. Quindi ho dovuto sfogliare cartella per cartella per dei periodi scelti a caso. E questo ha messo in rilievo ancora di più quello che ti stavo dicendo, cioè con diagnosi che io non avrei mai preso in considerazione, tipo demenza senile, c'erano dei casi di persone che poi in cartella si leggeva pederasta, passivo, omosessuale, invertito, eccetera, eccetera. Quindi quello che ho fatto io è il primo studio sull'argomento, ma spero che molti altri seguiranno, in quanto c'è un sommerso gigante che va un po' scolpito. A partire proprio da questo sommerso, è possibile secondo te stimare questo fenomeno repressivo per quanto riguarda le cifre? Al momento no, perché sarebbero degli azzardi, però di sicuro c'è una piccola folla di persone che è stata intercettata dai servizi psichiatrici in quanto deviante, degenerata, immorale, deficiente morale e via discorrendo. E in queste definizioni sicuramente c'erano molte donne ribelli, molti omosessuali, però non potremmo essere sicuri sui numeri. In generale la psichiatria, i numeri degli internati durante il fascismo si incrementano esponenzialmente, perché più si irrigidiscono le norme sociali e la repressione e più individui vengono intercettati e rinchiusi, vengono allontanati dalla società. Quindi durante il fascismo i numeri sono da capogiro, i manicomi scoppiano, sono tutti sovraffollati e sempre più individui vengono portati via e rinchiusi nei manicomi per il loro comportamento fuori dalla norma. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più sul tuo libro? Per il momento è in veste istituzionale, è in inglese, perché l'ho scritto in inglese, è pubblicato da Bloomsbury, si trova sul sito di Bloomsbury, sia in ebook sia stampato, però i prezzi sono i prezzi ancora per il circuito istituzionale. Uscirà in paperback tra non molto, spero, a prezzi accessibili. Il titolo è Italian Fascism Forgotten LGBT Victims, la Q non c'è perché la Q è stata considerata a ragione anacronistica rispetto all'epoca, in quanto queer è una parola della modernità. Io spero vivamente che ci sia una traduzione italiana, mi sto molto spendendo perché questo avvenga e spero di poter dare notizie anche di questo a breve, o comunque di una pubblicazione che si basa su questo e che è più snella, ma comunque in italiano. Che mi sembra importante far capire cosa è successo durante il fascismo agli omosessuali in termini di repressione. Come sappiamo la faccenda è stata un po' investigata negli ultimi anni, ma restano ancora alcune zone d'ombra che vanno investigate ancora di più. Il libro Fascisms LGBT Forgotten Victims, Asylum and Internment, 1922-1943. Un saluto e un ringraziamento all'autrice Gabriella Romano. A presto! Grazie, grazie, è anche possibile vedere la presentazione su YouTube. Con Cinzia Dalmaso, autrice del libro Femminacce impudentissime. Ben trovata. Buongiorno a tutti quanti i radioascoltatori e grazie di questa chiamata. Di cosa si tratta? Cos'è questo libro? Questo libro parla di un periodo storico molto importante, che è quello del Risorgimento, e soprattutto la difesa della Repubblica Romana del 1849. Era stata proclamata la Repubblica Romana e il Pontefice aveva chiesto aiuto a tutte le nazioni cattoliche per poter tornare sul suo trono. Le nazioni cattoliche naturalmente dissero tutte di sì, diedero il loro aiuto, e quindi la piccolissima Repubblica Romana si trova minacciata dagli eserciti delle quattro nazioni più potenti dell'Europa di quel periodo, che erano Francia, Austria, Spagna e il Regno delle Due Sicilie. A Roma marciano minacciosi i francesi e quindi lo scontro armato è inevitabile e la principessa Cristina Trivulzio di Belgioioso organizza un corpo di infermiere volontarie, cosa inaudita per quei tempi, che avrebbero dovuto curare i feriti, non solo italiani ma anche i feriti avversari. Il tutto poi sotto le bombe che cadevano con fatiche estenuanti e sacrifici immensi. E queste 300 donne si sono prodigate per curare tutti i feriti e quando invece gli avversari, i reazionari, soprattutto poi dopo la restaurazione del governo pontificio, le chiameranno con gli epiteti peggiori e uno di questi è proprio un branco di femminacce impudentissime. Altri le chiameranno svergognate e il pontefice Pio IX le chiamerà sfacciate meretrici. Questo soltanto per essere state avvolte soltanto di confort parte moribondi, perché poi a volte veramente non c'era niente da fare. E io ho cercato in questo libro di trovare più possibili note biografiche su queste donne, che in gran parte sono state poi dimenticate, ma ce ne sono alcune anche di grande spessore storico, come appunto la principessa Cristina Lucio di Belgioioso, nobile milanese, Margaret Fuller, che era una giornalista americana, una femminista antelitteram, una grandissima filosofa, una filosofa trascendentalista, e che poi morirà tornando in America insieme con il marito, che era un nobile romano, e il suo figlioletto. Che tipo di ricerca storica è stata? A 360 gradi, perché c'è stato da ricercare in tutte le maniere, perché proprio veramente di queste donne si è persa di molte la memoria. E allora, magari cercando sulle memorie, per esempio, di Anna De Cadillà, che ha lasciato qualche memoria, cercando alcuni nomi, poi questi stessi nomi sono stati cercati sia sui libri che sugli archivi, e addirittura anche nei cimiteri. A volte il cimitero, anche una lapide, ti può raccontare qualcosa di più o ti può chiarire un dubbio, perché magari ti spiega il nome dei genitori, il nome dei fratelli. E ho dovuto anche, ecco, andare a cercare queste donne anche laddove era possibile, anche nei luoghi di sepoltura, ma principalmente libri, archivi, sulla Repubblica Romana c'è un nostro archivio. È quello che ci ha restituito poi un progetto di scuola di infermiere, e aveva proprio messo in piedi Cristina Tribuzio di Belgioioso. Ma questo progetto poi non si è potuto realizzare perché non c'era il tempo, perché Tribuzio aveva ben altro da pensare in quel momento, ha salito proprio con la forza delle armi. Eppure questo progetto è veramente di una modernità eccezionale, non solo, ma è ricalcato a quello di Florence Nightingale, come se le due si fossero conosciute, cosa che però non è nota alle cronache, comunque l'anticipazione in qualche modo di quella che poi sarà la Croce Rossa, che ancora non esisteva e in cui il principio cardine è proprio quello dell'imparzialità nel soccorso dei feriti, perché sia i francesi che i Borboni furono curati con la stessa sollecitudine. Per esempio, i feriti della battaglia di Velletri sono stati curati con la stessa sollecitudine per entrambi gli schieramenti. Questa è una vicenda abbastanza significativa, anche perché noi lo sappiamo che il Risorgimento è un punto fondamentale tra le tappe della emancipazione femminile. Veramente in questo momento le donne esprimono una forza particolare, e ci sono anche molti uomini, qui Mazzini, Giuseppe Garibaldi, che apprezzano il lavoro delle donne, l'impegno delle donne. Noi abbiamo alcune di queste infermiere come Marietta o Maria Paradisi, che era veramente una donna di una forza incredibile, di un piglio incredibile, che non guardava in faccia nessuno, che rischiava continuamente in prima persona. E infatti poi, finita la Repubblica Romana nel 1862, sarà anche imprigionata per sospetto di cospirazione, e lì porterà anche la figlia nel carcere del Buon Pastore, lì porterà anche la figlia, e la figlia aveva 5 anni e diventerà poi l'unica giornalista italiana, insieme con Matilde Serao, che potesse veramente chiamarsi giornalista, e questa è Olga Ossani, che sarà l'ispiratrice di tanti artisti, a cominciare da D'Annunzio, che si ispirerà a lei nel piacere, per la Elena Muti del piacere, oppure addirittura degli artisti che la raffiguravano, degli scultori come Francesco Vierace, che sembra che qualsiasi immagine volesse rappresentare sempre lei prendeva a modello, e persino Salvatore Di Giacomo, nello scrivere una delle più belle canzoni napoletane, che si chiama proprio Napolitanata, prende ispirazione da lei, dal suo viso chiaro, gli occhi scuri e i capelli completamente bianchi, perché la sua caratteristica era che a 20 anni aveva i capelli completamente bianchi, e sembra che questo fosse il punto di forza della sua bellezza. Il libro Femminacce Impudentissime, un saluto e un ringraziamento all'autrice Cinzia Dalmaso. A presto! Grazie a voi! È il momento dell'agenda per gli appuntamenti della settimana relativi al teatro e agli eventi culturali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ciao a tutti, buon pomeriggio. E noi, col caldo, con tutto quello che può competere a una Roma di giugno, comunque al teatro ci continuiamo ad andare, anche perché alcune cose magari le fanno anche all'aperto e adesso pian piano ci arriviamo. Ma partiamo dalla nostra stagione lunga del Teatro Bella Monaca, perché anche questa settimana 11-16 giugno andremo a teatro Alto Bella Monaca con questa sera un lavoro dedicato a Bertolt Brecht con la regia di Teresa Polimei, appunto incontrando Brecht, questa, cioè, alla ricerca insomma dei tratti del pensiero di Brecht, dei suoi personaggi un po' in bilico, no? Tra una moralità più spiccata o sicuramente più confusa, più nascosta. Poi mercoledì invece 12 andremo a vedere il testo di Dario Fo, Ladri, Giullari e Canzoni, con la regia di Ermanno Iencinella, chiaramente dedicato insomma al grande drammaturgo, attore, premio Nobel per la letteratura Dario Fo, tratto appunto dalla farsa Non tutti i ladri vengono per nuocere e le canzoni, unite appunto in questo Ladri, Giullari e Canzoni. Poi giovedì andremo a vedere Una lunga attesa, la regia di Fabrizio Romagnoli. Carlo Daglioni è una delle interpreti, sono quattro donne, una stanza, un tavolo, una partita a carte. Chissà, sono amiche o nemiche, questo lo scopriremo durante lo spettacolo. E dopo quattro donne, altre due ce ne stanno la sera di venerdì, perché due donne e un delitto della compagnia Linea di Confine, che cercano di addentrarci nel più grande dei misteri, cioè capire cosa pensi davvero una donna, che ci dicono qua è difficilissimo. E poi quando sono due, l'impresa è praticamente impossibile, io spero, immagino, insomma, tratti di qualcosa di utilizzare in forma ironica. Il sabato invece, fine settimana, ci presenta due appuntamenti. Il primo, Giù con la vita, di sabato 15, di Gianluca Vitale, una commedia tragicomica, con comicità e drammaticità chiaramente riunite, mentre domenica andremo a vedere lo spettacolo scritto di Gianni Clementi, diretto da Angelo Grieco, Gesù, Giuseppe e Maria, la commedia che si ispira alla tragedia della miniera di Massimo in Belgio, dove nel 1956 perso la vita più di 300 minatori, la maggior parte di immigrati italiani, per lei. Questo per quanto riguarda il nostro Torbella Monaca, ma passiamo, perché al Teatro Argentina alle ore 18 ci sarà una serata speciale dedicata a Piero Gabrielli, a 100 anni dalla nascita, fondatore del Laboratorio Teatrale Integrato. Dalle ore 18 la serata è libera fino al momento post il Laboratorio Integrato, chiaramente, che fa lavorare insieme e vivere insieme ragazzi con e senza disabilità. Questo è il lavoro che è sempre stato di Piero Gabrielli, che ora viene intestato anche il laboratorio integrato diretto da Roberto Gandini. Per ciò che riguarda invece la danza, andremo nel fine settimana a Velletri per Paesaggi del Corpo, il Festival Internazionale di Danza Contemporanea nei Castelli Romani, che è la quinta edizione. Questa settimana andremo a vedere 15 giugno Balancier di Mandala Dance Company, compagnia diretta da Paolo Sorresco, compagnia internazionale, mentre a seguire ci sarà il lavoro dei Stili di Bellezza, firmato da Francesca Selva, autrice che anche lei si esibisce sia in Italia che all'estero, e poi chiusura Company Blue, che porta in scena Ecosystem con la G al posto della C, quindi Ecosystem ed Ecosystem insieme, insomma la coreografa e performer Charlotte Zerbey. Invece il 16 giugno dalle 18.30 sempre andiamo a vedere Otra Carmen, opera della formazione spagnola Tagliata Danza, e subito dopo Le città invisibili con la coreografia di Roberta De Rosa, e decisamente a concludere la serata con la performance di Virginia Spallarossa diretta da Cid Tuchu, che si chiama Mandibola. Questo è quanto andremo a vedere, un weekend insomma un po' pieno di appuntamenti a Velletri per appunto Paesaggi del Corpo. Procediamo con il Festival Arte in Cammino, che viene presentato nella Valle delle Miene, del Giovenzano, dal 15 giugno sarà fino al 28 di luglio, quindi invito ad andare anche sul sito di settimocielo.net per prenotazioni, vedere poi il programma completo. Io segnalo che appunto il festival sta partendo, andrà avanti per un po'. Il 15 giugno ci sarà il debutto nazionale di Manifesto Tubaran di Alessandro Sesti, che insomma inizia questa apertura appunto artistica sulla valle delle Miene. Ci saranno altri appuntamenti che invito a ricercare. Sicuramente ecco, Pietro Montandon presenta Lunaria, lo spettacolo che sarà in scena il 16 di giugno. Ma insomma, tutti gli appuntamenti su settimocielo.net, e con più precisione, insomma, più calma sicuramente di così, per segnarseli meglio. Continua il festival Torpigno World Kids Festival, appunto promosso dalla Fortezza Est a Torpignattara. Giovedì 13 e venerdì 14 andremo a vedere Marco Cecotti e Simona Operisano con Lo strano caso dei tre porcellini, ed è un lavoro che racconta la storia del detective privato Walter Appesca e risolve i problemi delle fiappe. Questo insomma riceve una richiesta d'aiuto dei tre porcellini, e quindi vediamo il detective come se la caverà. Invece durante il weekend, il sabato 15, domenica 16, Librandi alla città di Carta, il progetto dedicato al libro, sempre alla fortezza Est. Poi ancora paesaggi, forse ancora degli appuntamenti, sì, questa settimana no, semplicemente confluisce appunto in Arte in Cammino, ecco, probabilmente sta andando in questo modo, non avevo visto bene, ma sicuramente da un progetto all'altro andremo a vedere Prove di volo, che è la mostra itinerante di esperimenti grafici ad Arzoli il 13 giugno, che porterà appunto all'apertura poi del festival Arte in Cammino, proprio con lo spettacolo che abbiamo. Comunque i due festival in qualche modo si toccano, lo spettacolo che abbiamo già parlato prima, ovvero sia il lavoro firmato da Alessandro Sesti, Manifesto Tubaran. Ultimi appuntamenti. Allora, intanto Inventaria conclude la sua settimana dall'11 al 13, il suo festival, insomma, dall'11 al 13 giugno, questa volta al Teatro Basilica, e questa sera andremo a vedere uno spettacolo firmato Carichi Sospesi, 63 azioni è il titolo dello spettacolo, appunto al Teatro Basilica, la regia di Marco Caldirone, in scena Marco Tizianello, insomma loro sono storicamente la compagnia Carichi Sospesi, mentre invece 12 e 13 giugno, domani dopo domani, andremo a vedere la sezione Demo, che presenterà insomma alcuni piccoli spettacoli in concorso. Segnalo di varie cose, la compagnia 20 grammi, e la compagnia scusa, Caraboa Teatro, che presenta lo spettacolo 20 grammi con Nicola Ciaffoni. Segnalo sempre il 12 Simone Zambelli, che ha ideato e presenta in scena Lacrimosa con la trama di Cinzia Sita, e poi si continuerà il 13 di giugno, insomma, avremo altri spettacoli, ma anche qui sul sito di dovecomequando.net c'è cioè il programma completo di Inventaria. Ultimi appuntamenti di cui ragionare. Allora, si è parlato di questi giorni di attraversamenti multipli, che finalmente comincia dal 15 giugno fino al 29 al Parco di Torre del Fiscale. C'è un programma piuttosto articolato, che insomma andiamo a scoprire via via. Si tratta di lavori chiaramente in spazio aperto, che sto cercando di interpretare anche la relazione con lo spazio intorno allo spazio di Torre del Fiscale, e cominceremo il 15 di giugno alle ore 20 con Akira Yoshida, che presenta Oroi Men in una dimensione specifica, insomma, di Akira Yoshida, che è uno dei danzatori proprio più versatili del programma spagnolo. Per ciò che riguarda invece il 16 di giugno avremo due lavori, il primo firmato da Marco Olivieri, Tre Pass, che presentata alle 19.30, una coreografia tale è anche quella di Claudia Catacci con 14.610, che titolo, seguirà alle 21.30 una performance di alta densità poetica che appunto vedremo al Parco Ritorno del Fiscale per attraversamenti multipli. Ultimissima segnalazione che riporto è lo spettacolo sarà in scena al Teatro Argentina domani e dopodomani, ovvero sia a Gabbadora, dal romanzo di Michela Murgia, edito da Giulio Einaudi, editore, che la regia di Veronica Cruciani porta sul palco appunto del Teatro Argentina. La drammaturgia è quella di Carlotta Corradi, e mentre invece in scena ci sarà Anna Della Rota. Quindi Teatro Argentina a Gabbadora 12-13 giugno e abbiamo concluso. Ciao a tutti. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.